Io vi do il benvenuto, buonasera a tutte le signore e i signori che sono qui presenti e un particolare saluto ai nostri ospiti di questa sera. Ringrazio la nostra autrice Stefania Lucci, che è una professoressa universitaria che, terminato la sua attività professionale, ha iniziato ad affrontare un cambiamento interessante, che è quello di dedicarsi alla narrativa, per cui la ringraziamo anche perché è un esempio di come si può nella vita anche trovare delle nuove risorse, dei nuovi talenti e il piacere di provare nuove strade. Con noi è appunto questa sera anche il professor Vito Mastrolia, che è presidente dell'Associazione Scrittori Alto Atesini, un'associazione nata recentemente ma molto attiva, molto vivace e presente sul territorio, con la quale da un anno a questa parte è dato anche a Mantova, perché anche sono andati laddove non si riesce sempre ad andare, che è Mantova, e si sono presentati, hanno avuto anche un bel successo e riscontro. E quindi hanno portato così Bolzano e l'Alto Adige all'interno di un festival letterario di tutto rispetto, come appunto quello di settembre a Mantova. Questa sera abbiamo appunto un ospite molto importante, la professoressa Stefania Lucci, che ci presenta il suo romanzo d'esordio, che appunto Viola deve sapere. Abbiamo anche la possibilità eventualmente di acquistare delle copie. Abbiamo preparato un tavolino, come nostra solita tradizione, dove ci sono altri romanzi e altre opere, e soprattutto c'è anche un libro di Vito Mastrolia, l'abbiamo trovato e messo in mostra. Siamo contenti di poter così promuovere le nostre collezioni. Da poche settimane siamo in questa casa, al piano terra, sulla parte di via Marconi si trova la biblioteca, e quindi per noi è particolarmente anche piacevole poter finalmente organizzare delle iniziative in casa e poi avere il piacere di accogliervi in questa nuova struttura, avere magari anche dei contatti più intensi con voi e mostrarvi quelli che sono i servizi che vi mettiamo a disposizione. Grazie ancora, a voi la parola e buona serata. Grazie. Buonasera anche alla parte mia. La dottoressa Trevisan ha già in parte presentato la dottoressa Lucci, dottoressa perché era ed è un medico specializzata in endocrinologia, libero professionista, non dico dove, solo a Merano, ma non dico altro, non posso ovviamente pubblicità. Oriunda romana, nostra socia nella nostra associazione, ormai da un anno quasi, siamo particolarmente contenti di averla nel nostro sodalizio, perché anche lei porta un contributo di esperienza, di scrittura e di attività. Per quello che io ho letto nella prefazione del libro che si viene presentato questa sera, la dottoressa Lucci ha scritto e pubblicato solo ora, però la sua passione per la scrittura, per quello che io ho capito, risale a qualche tempo fa, a qualche anno qualche fa, decennio fa. Qualche decennio fa. Evidentemente, anche per motivi di lavoro, certamente non ho avuto tempo di esplicare, di mettere in atto questa sua passione, però adesso finalmente può esplicarla, quindi svilupparla nei modi migliori possibili. Bene. Il libro di questa sera è un thriller psicologico, è una particolare categoria di romanzo giallo, che appartiene pur sempre a questo tipo di pubblicazioni, però è un thriller psicologico che ha una sua particolarità di svilupparsi intanto con una narrazione facile, di facile lettura, chiara, accattivante direi, no? Addirittura prende il lettore. Io stesso, quando ho avuto in mano questo romanzo, l'ho letto in una lunga serata, quindi ho preso a leggerlo e finché non l'ho finito non ero soddisfatto, no? E questo la dice lunga su come si sviluppa tutta la narrazione. E è un thriller psicologico, ma ce ne sono anche altri attualmente di romanzi di questo genere, però c'è una novità per quello che io so. stanno entrando sempre più all'attenzione del pubblico, dei lettori, anche dell'editoria naturalmente, dei thriller cosiddetti storici, vale a dire i personaggi in questo caso sono personaggi della storia, storia italiana, storia francese, storia europea. Intorno a personaggi storici viene costruita una narrazione ovviamente fantastica, fantasiosa, no? Però il punto di riferimento è un evento storico, un personaggio storico, e da lì poi si costruisce qualcosa. E questa tipologia di scrittura, di thriller, sta avendo successo. Io ho potuto vedere, leggere, che specialmente nell'editoria francese, ma sta entrando anche in Italia, è presente questa tipologia di thriller storico. Quindi stiamo passando dal psicologico allo storico, però si tratta pur sempre di modi di esprimersi molto belli, significativi, perché se poi sono riferimenti storici è ancora più importante, no? Si vengono a conoscere magari eventi, fatti che non sempre sono conosciuti nella loro particolarità. E c'è una similitudine in questo thriller della dottoressa Ricci con un romanzo scritto pubblicato nel 2004 da Umberto Eco. Anche lì Eco si intervisce nel raccontare, come nel caso del personaggio principale del romanzo di questa sera, che è Viola, appunto, anche lui cerca di sviluppare una narrazione intorno al personaggio che ha perso la memoria per un evento traumatico. Il riferimento è un fatto, anche lì un fatto storico: durante la guerra di liberazione dal nazifascismo in Italia, un giovane partigiano, nell'inseguire un gruppo di soldati nazisti, cade in un burrone, batte la testa, perde la memoria, e con l'aiuto di un amico, di uno psicologo, analogamente a quello che succede nel romanzo della dottoressa Lucci, anche qui c'è una situazione simile, vale a dire c'è uno psicoterapeuta che aiuta il personaggio a riprendere la memoria totalmente perduta. Anche lì questo personaggio, quello di Eco, ripeto, attraverso il rivivere situazioni, incontrare persone che avevano fatto parte della sua vita passata, gradualmente riesce a riprendere quello che aveva perduto, cioè la sua piena facoltà mnemonica. E citavo questa somiglianza non per dire che ovviamente ci sia solo una similitudine, solo un fatto occasionale, perché evidentemente la dottoressa Lucci probabilmente neanche conosceva il nome della rosa, noi tutti conosciamo il nome della rosa e tutto il resto, ma questo romanzo strano, tra l'altro è l'unico romanzo di Eco che è arricchito da fotografie, da illustrazioni, no? Caso fosse unico. Bene. E la trama è accattivante, l'ho già detto, non voglio ripetermi. Leggendo si viene presi e non si rinuncia all'idea di portare a termine la lettura. La prosa è di estrema chiarezza, per cui direi che la dottoressa Lucci, anche se è la prima volta che pubblica, però pare che abbia un'esperienza di scrittura di romanzi notevole, eccellente, no? E quindi io sono convinto che tra non molto uscirà qualche altra opera con caratteristiche di bellezza, di chiarezza analoghe, no? Ci sono molti colpi di scena, come si dice in questo racconto, no? La fine è tipica da romanzo giallo, c'è il solito assassino che però è veramente una persona assolutamente improbabile, no? Quindi mai e poi mai leggendo si riuscirebbe a intuire neppure lontanamente che fosse questa persona il personaggio cattivo di turno, no? Ecco, aggiungo un'altra cosa. Abbiamo visto che anche nel nostro paese vanno molto bene queste scritture, queste narrazioni di questo genere, di tipo, diciamo così, giallo, poliziesco, no? Quindi c'è sempre più in televisione, nella editoria, il Montaldano di turno, no? Siamo contenti che in fondo noi come lettori alla fine riusciamo a capire chi è il colpevole di un reato, l'assassino, l'assassino che sia. Sembra quasi che tutto questo ci dia soddisfazione, ci dia piacere, no? O finalmente abbiamo beccato uno che l'ha fatta grossa, no? E questo indica che in fondo da un punto di vista sociale certamente c'è attualmente un bisogno di certezze, bisogno di legalità, bisogno di vedere che alla fine, sia pure con fatica, le cose poi vengono messe a posto. E quindi da un punto di vista sociologico questo potrebbe essere un elemento di riflessione importante. E io non aggiungerei altro, perché tolgo la parola all'autrice, che sicuramente avrà molto di più e meglio da dire che non io. Grazie. Io ringrazio il professor Mastrolia per questa particolarizzata introduzione impegnativa per quello che riguarda le mie competenze e, diciamo, l'opera che ho prodotto, e l'associazione degli scrittori di Bolzano che mi ha accolto, e voi presenti naturalmente, e questa bella struttura che sicuramente, come è stato detto, potrà coagulare intorno a sé molte esperienze culturali di vario tipo. Allora, Viola deve sapere. Allora, innanzitutto il titolo. Vi dico che il titolo, che è un titolo abbastanza impegnativo, secco, non è il titolo originale, ma non perché l'editore, come spesso accade, abbia proposto di modificarlo, ma perché in realtà è il sottotitolo dell'opera. Il titolo originale, quello che io avevo inizialmente concepito, era Richiesta di amicizia. Questo perché? Perché in questa storia una parte abbastanza rilevante, diciamo, che fa un po' da retroscena per poi acquistare sempre maggiore importanza, è il mondo del web, l'internet, le amicizie di Facebook, eccetera. C'è anche questo, perché chiaramente, come per ogni libro e per ogni cosa, ci possono essere livelli diversi di lettura. Possiamo limitarci alla semplice trama, farci appunto avvincere dalla trama, oppure cercare, attraverso le tematiche che propone, che, diciamo, immodestamente ho cercato di proporre in questa storia, anche avere uno spunto di riflessione su situazioni, prima di tutte direi la violenza domestica sulle donne. Questo è un aspetto purtroppo tristemente sempre più attuale, e direi tanto più raccapricciante, soprattutto perché nella storia e anche nella realtà, nella quotidianità, ascoltiamo nei fatti di cronaca, molto spesso si attua verso chi si fida, cioè verso chi dovrebbe, in ambito familiare, trovare sicurezza, protezione. Ricorderemo tutti che Dante punisce i traditori più verso coloro che si fidano che non verso coloro che non si fidano, a testimoniare che appunto di fronte a diciamo una totale fiducia, come può essere quella di un bambino nei confronti del proprio genitore, o comunque di figure che rappresentano diciamo l'autorità, perché c'è anche questo in questa storia. Ci sono dei personaggi che, al di là dei principali, che sono appunto Viola, la protagonista, funzionario di polizia che è anche il suo partner sentimentale e di cui lei anche non ha ricordo, e c'è la figura dello psichiatra. Queste sono sicuramente le figure che emergono di primo acchito, ma poi ci sono tanti altri personaggi di sottofondo, le sorelle della protagonista e figure solo tratteggiate, ma che mano a mano acquistano poi importanza nell'evoluzione della storia. E anche questo lo possiamo anticipare, siccome ho iniziato a scrivere il sequel di questa storia, acquisteranno anche maggiore importanza nella seconda puntata, chiamiamola così. Allora, Viola è una ex giornalista quarantenne che appunto per un fatto, per un grave trauma psicofisico, si risveglia dopo 35 giorni di coma e ha perso la memoria. Ha la memoria naturalmente dei fatti culturali, della scuola, eccetera, ma le persone, cioè quelle persone che si scoprirà poi sono alla base del trauma psicologico che attraverso quello fisico ha creato lo stato di coma, di queste persone ella non ha memoria assolutamente, pur avvertendo subito inizialmente una certa ostilità. Le sorelle sono sfuggenti, sanno molto più di quello che non vogliono ammettere, e lei stessa per uscire da questa situazione, da questo impasse, accetta di sottoporsi a delle sedute di ipnosi terapia regressiva. Ora sappiamo tutti, siamo un po' abituati anche a pensare all'ipnosi come un'ipnosi da palcoscenico, no? Quasi al limite della situazione di intrattenimento, più o meno curioso. Viceversa, l'ipnosi terapia medica è una branca che affianca situazioni di questo tipo, perché Viola è affetta, presenta molti sintomi della sindrome post-traumatica da stress, quella che pazienti di questo tipo più o meno gravemente manifestano con perdita non solo della memoria, ma anche della capacità di provare sentimenti, o credono di non avere capacità di provare sentimenti, la cosiddetta alexitimia, ed è una situazione appunto che viene descritta nel romanzo e che è un po' la trascrizione, diciamo, delle sedute di ipnosi terapia a cui la nostra protagonista si sottopone, e sia pure in una sequenza non temporale, ma mano a mano il puzzle si ricompone, questo puzzle che è stato appunto travolto da questo evento traumatico, si ricompone piano piano e troverà una sua logica naturalmente e un suo perché. Dicevo, vari livelli di lettura. È un romanzo, appunto, come sottolineava il professor Mastrolia, psicotriller, e non è una questione di moda, ma perché diciamo che in questa storia sì, c'è anche il sangue, tra virgolette, però è un romanzo più di introspezione psicologica che non di azione, anche se, ripeto, c'è anche quella naturalmente, perché si deve arrivare a una soluzione poi, no, del giallo, possiamo dire, perché la trama non la possiamo svelare. Anche nella scelta delle letture abbiamo cercato di riproporre l'atmosfera che credo di aver creato nel romanzo, ecco, questo lo possiamo dire. Il romanzo è scandito dalla pioggia, cioè in questa storia piove sempre, solo alla fine naturalmente compare il sereno, ma è un sereno comunque con un finale aperto, questo lo possiamo dire. Ma dicevo, anche nella scelta dei brani che adesso vi proporremo, ho cercato di non scegliere parti in cui la trama avrebbe potuto essere già intuita. Non ho voluto presentare il prologo, perché il prologo, lo dico subito per chi vorrà leggerlo, il romanzo è un po' forte, è forte non per la descrizione ma per i contenuti, e quindi preferisco che sia diciamo delegato a una lettura non pubblica ma a una lettura privata. E detto questo, passiamo la parola alla nostra attrice Maria Pia Zanetti, che voi tutti immagino conosciate già. Quindi leggerà alcuni brani che sono stati individuati e scelti dall'autrice in persona. Diona. L'automobile si ferma davanti al portone, dal lato opposto del marciapiede. La strada è stretta, quasi un vicolo, ed è a senso unico. Il tergicristallo, anche a velocità doppia, non riesce ad allontanare dal parabrezza la pioggia battente. I vetri sono appannati, ma Pier Giorgio Pichler, che è alla guida, individua agevolmente la targa rettangolare di Ottone. Dottor Raniero Ranieri, psichiatra psicoterapeuta, legge ad alta voce. L'abitacolo ci ripara dalla furia di questo rovescio primaverile come un bozzo caldo e protettivo, e io non vorrei lasciarlo, pur sapendo che è una cosa che devo fare. Sospiro e mi rassegno a scendere. Sono arrivata. La voce in colore rimbomba nella mia mente vuota come in una cassa di risonanza. Ma piove a dirotto, commenta Pichler. Cerchiamo un parcheggio, ti accompagno. Sono certa che la banalità del dialogo non sfugge neppure a lui. No, grazie, sono in ritardo e poi sai che tanto non puoi entrare. Non importa, resto in sala d'aspetto. Vai al commissariato invece, lo esorto, cercando invano di dissimulare quanto sia irritata per la sua ostinazione. E gli appoggio una mano sul braccio, mi accorgo che stringe il volante nervosamente, mi sforzo di sorridergli e cerco un tono più conciliante. Ti telefono quando ho finito. Promesso. Promesso. Armeggio con l'ombrello finché non riesco ad aprirlo. Poi richiudo lo sportello con vigore eccessivo, tradendo ancora una volta tutta la tensione che mi porto dentro. Passando davanti ai fanali accesi, attraverso quasi di corsa la strada e guadagno il marciapiede prospiciente il civico numero 8, illuminato da un lampione tra un albero di pisco e l'altro. Vedo che il mio accompagnatore non si decide ad andare via e agito una mano in segno di saluto, abbozzando un altro sorriso forzato. Un attimo dopo, un lampo, seguito da un fragoroso tuono, saetta vicino, squarciando le tenebre del cielo di questa zona di Roma, carico di basse nuvole nere di elettricità. E nel mentre, un ricordo illumina la mia mente. Pier Giorgio e io, colti da un temporale estivo, ci affrettiamo ridendo a cercare riparo sotto una tettoia. Non ricordo quando, non ricordo dove, non ricordo altro. Viola. Viola mi richiama. Colgo una nota accurata nella sua voce. Viola, non perdiamoci di nuovo. Lo sento mormorare. È come se avesse il pudore delle sue parole, dei suoi sentimenti. Mi volto a guardarlo. Non riesco a credere che quell'adolescente magro e bassetto, come si è descritto Pier Giorgio, ora abbia un fisico vigoroso. Contrasta con i tratti del viso delicati, quasi femminei, nonostante le rughe che iniziano ad assediare i suoi occhi gli diano un'aria vissuta. Le pieghe ai lati della bocca gli conferiscono un'espressione amara, come di irreversibile sofferenza. Cosa mi piace del volto di quest'uomo, mi chiedo. Gli occhi, decido. Sì, gli occhi, grandi e di colore verde scuro, illuminati da pagliuzze dorate. Sono anche occhi buoni. Questo non saprei dirlo. Da quando mi sono risvegliata dal coma, è come se fossi nata una seconda volta. Sono come un neonato che non sa distinguere il bene dal male, capisce solo cosa è il dolore e cosa è il piacere, ma non sa cosa provochi uno e cosa stimoli l'altro. E neppure può difendersi dal primo e assecondare il secondo. Immagino che quei bicipiti scolpiti e quelle cosce muscolose siano il risultato di ore di duro allenamento in palestra, probabilmente anche necessario per il tipo di lavoro che, dopo la laurea in giurisprudenza, questo ex compagno di scuola, di cui non mi ricordo, timido e insicuro, come si è definito, ha scelto di fare: l'ufficiale di polizia. Annodo la cinta della vestaglia e mi siedo sulla sponda del letto. Le dita della mia mano destra cercano quasi con timore la sua mano sinistra. All'anulare finora non ho visto una fede nuziale, ma so che questo non significa nulla. Considero che, nonostante la mia amnesia sia totale e devastante, mi sento in qualche modo più forte rispetto anche solo a un paio di settimane fa, e che, pur essendo atterrita alla prospettiva dell'ipnosi regressiva che Ranieri mi ha proposto, questa forza mi viene da Pier Giorgio Pichler. Lui mi sta dimostrando una sollecitudine, una dedizione, una pazienza che solo un sentimento sincero e profondo può giustificare. Decido che voglio sapere di più su quest'uomo e che il rapporto con lui, qualunque cosa sia o possa diventare, vale la pena di essere vissuto. Se davvero mi ami, dico, aiutami a fare questo viaggio. Mi rivolge uno sguardo interrogativo, aggrottando la fronte. Io devo ritrovare me stessa. Devo viaggiare a ritroso nel tempo, accettando anche la possibilità, per l'amore che dici di nutrire per me, che al termine del cammino io sia diversa da come sono ora e come ero nei tuoi ricordi di ragazzo, oppure che, come temi, ci si perda di nuovo. Trattengo per un attimo il respiro. Adesso come adesso posso dirti soltanto che con te io sto bene, che mi dai sicurezza in questo mondo che mi è strano, in cui non ho più riferimenti. Io non voglio usarti, non voglio. Però non posso dirti neppure che ti amo o che non ti amo, semplicemente io ora provo altre emozioni che non siano paura, angoscia, senso di morte imminente. Soltanto chi l'ha vissuta sa quanto sia penosa la mia condizione. Sono in uno stato di panico che mi paralizza. Mi sento attratta da te e credo di avertelo dimostrato. Mi piace l'odore della tua pelle, mi piace toccarti e mi piace come mi baci, come mi prendi, mamma. Ma mi incalza lui, tradendo la sua ansia. Ma io non ti conosco. Io non so nulla di te, della tua vita, e non è perché ho perso la memoria, sento che è diverso. Fatti conoscere da me, Pier Giorgio. Lui sorride mestamente. Si porta la mia mano alle labbra, baciandone le dita una a una, come se ogni bacio fosse l'ultimo. Chiedimi ciò che vuoi. Sarò un libro aperto, ma al contrario di te io non ho rimosso, io conosco tutte le sue pagine dolorose. Non passa giorno senza che le legga, perché io non voglio dimenticare. Legga l'ultimo brevissimo voluto far inserire, volevo dire due cose. Uno, la signora Zanetti lo ha diciamo sottolineato, ogni brano è preceduto da chi parla, cioè ho utilizzato l'escamotage di cambiare il punto di vista, che è una cosa che generalmente viene considerata un errore in cui facilmente cadono gli esordienti, i principianti come me, e che invece in questo caso è voluto, perché mi ha dato la possibilità di far dire in prima persona i pensieri di ognuno dei protagonisti principali. Soltanto i tre, lei, lui e lo psichiatra, hanno questa caratteristica, cioè su ognuno di loro esprime i propri pensieri. E poi volevo dire che l'ultimo breve, molto breve, brano che leggerà, ho voluto inserirlo perché l'impressione che voglio dare da queste letture è che se questo è un romanzo che racconta una storia di sopraffazione, di violenza, in una famiglia borghese, in cui prevale l'ipocrisia, è però anche una storia d'amore, sofferta, eppure appagante sul piano fisico e spirituale, e che si conclude con un finale a sorpresa, e spero vi entusiasmerà. Prego. Quindi traduciamo le mie? Sì. La pagina 130. Andiamo. Lo capisco, Bob, mormora lui paziente, attirandomi nuovamente a sé. Io ho fatto ciò che potevo per te e mi caricherei anche del tuo dolore se questo servisse a farti stare meglio. Nella tua memoria c'è ancora una lacuna da colmare e devi farla da sola. Io ti sto tendendo una mano, non sono perfetto, lo so, nessuno lo è. Anch'io ho sofferto e una parte di me sanguinerà sempre. Accadrà la stessa cosa a te. Ma se resteremo insieme, ci salveremo insieme. O insieme ci perderemo. Sento di potermi abbandonare con fiducia alla suggestione di quelle parole e a ciò che prometto. Sono le parole che avevo bisogno di sentirmi dire, quelle che avrei usato io, delicate e rassicuranti, dette da un uomo forte e sensibile al tempo stesso, un uomo che forse mi ama per come ero e per come sono ora, e senza riserve. Il mio pianto lentamente lascia il posto a un lamento sommesso e mi scopro serenamente arresa al potere salvifico dell'amore. Bravissima, è un'attrice di teatro e non poteva che essere così. Bene, grazie. Volevo aggiungere due cose. Questo romanzo è stato presentato e era presente alla mostra del libro a marzo scorso a Torino, e non solo, ma mi risulta che è stato presentato anche a Roma. Sì. Ma sì. Ci dica dove? La mia città natale, la mia città del cuore, l'ho presentato a Roma a giugno, nel mese di giugno. È stato diciamo un successo, ma non diciamo così eclatante come invece a Merano, dove l'ho presentato la settimana scorsa. C'è stato un grande afflusso di persone e in entrambi i casi però c'è stato un vivace dibattito che ha seguito alla presentazione del libro, e io quindi inviterei qualcuno, se a voglia, no? Abbiamo il tempo di fare una domanda o due su qualche aspetto che magari possa aver ingolosito la vostra. Parto io con qualche domanda, no? Quasi provocatoria. Primo, come è nata questa passione per lo scrivere così bene, tra l'altro, che indica che sicuramente alla prossima occasione ci sarà un altro successo? Prima domanda, poi faccio un'altra, così risponde dopo tutte e due. E gli autori di riferimento, quali sono? Quali sono stati eventualmente? E terza e ultima, qual è il pubblico a cui lei pensa di rivolgersi? Allora, rispondiamo alla prima. Per quanto riguarda la mia passione per la scrittura, lo ha, diciamo, enunciato lei quando mi ha presentato, e nasce molto indietro nel tempo. All'età di 10 anni ricordo ho scritto il mio primo racconto, con tutta l'ingenuità di quegli anni naturalmente, Il segreto del castello sullo scoglio, quindi già un'atmosfera di thriller evidentemente c'era già allora, e siccome mi piaceva, non ho coltivato questo aspetto, ma mi piace disegnare, mi piace dipingere, l'avevo anche illustrato, solo poi purtroppo gli anni, i traslochi, ecco, si è perso. È un peccato perché mi sarebbe piaciuto tenerlo, quindi parliamo di, ahimè, tanti tanti anni fa. Poi ho continuato a scrivere, in realtà, come forma di hobby puro. Ci sono altri 4 romanzi che dormono nel cassetto, chissà, magari prima o poi verranno, verranno risuscitati. E questo è il primo romanzo che è stato accettato per la pubblicazione. Alter Ego Edizioni, il direttore ha creduto in questa storia, ha creduto in me e quindi mi ha consentito di pubblicarlo. Sappiamo che, ecco, una cosa che vorrei sottolineare, perché questo è un aspetto al quale io tengo molto come, diciamo, panoramica generale, non è un'editoria a pagamento, è un editore tradizionale. Io penso che l'editoria a pagamento, il self-publishing, siano veramente il colpo finale alla crisi dell'editoria che noi abbiamo, perché non c'è filtro, viene pubblicato di tutto, e questo credo che sia veramente un grosso danno in un momento in cui la cultura soffre molto, secondo me, a vari livelli, a varie manifestazioni. La seconda domanda, autori di riferimento, ma io sono onnivora, direi, nel senso che amo leggere, prima lo metterei sullo stesso piano, amo scrivere ma amo moltissimo anche leggere, quindi diciamo che forse come sensibilità mi riconosco più in Gramellini, per esempio, ecco, Massimo Gramellini potrei considerarlo un autore di riferimento. Fai bisogni, per esempio, è un libro che mi ha diciamo, mi è piaciuto molto. Poi leggo anche molta letteratura straniera, insomma, di autori americani, dei quali c'è il grosso handicap, perché noi sappiamo che dobbiamo fidarci di chi traduce, nel senso che bisognerebbe poter leggere in lingua originale, cioè avere una padronanza tale di poter cogliere, diciamo, i pro e i contro di una determinata letteratura, cosa che naturalmente non possiamo fare. Mi viene in mente La ragazza del treno, per esempio, se c'è qualcuno che lo sta leggendo adesso ovviamente non dirò nulla, però mi ha molto deluso, sia sul piano probabilmente della traduzione, devo dire. Ho trovato una prosa un po' sciatta, ecco, la sensazione che ho provato è che fosse una prosa sciatta. E poi, al di là dei contenuti, che insomma, ripeto, questa è la storia qua, però bisognerebbe poter giudicare in effetti nella lingua originale. Quindi leggo di tutto, direi, insomma, ecco questo. E la terza? L'autore di riferimento non è stato sicuramente Umberto Eco. No. Una cosa è un caso. Riguardo questo ci tengo a sottolinearla, ripeto, per chi leggerà, non c'è assolutamente nessun riferimento autobiografico alla storia. Questo è importante sottolinearlo, perché quando leggerete capirete. Quindi non c'è nulla di autobiografico, c'è un'ispirazione legata alla mia attività di medico di tanti anni, il medico un po' come un professore. Spesso mi capita che il paziente, la paziente molto spesso, che si siede davanti a me, davanti alla scrivania, e anziché cominciare a parlare dei propri mali fisici, comincia a piangere. E quindi, da tante storie sentite in tanti anni di attività professionale, ecco, qualche spunto altamente drammatico che c'è in questa storia nasce da esperienze di attività professionale. Ecco, questo ci tenevo a sottolinearlo. Se vuole, l'altra domanda, corrisponde alla tua domanda, era a quale pubblico pensa di rivolgersi preminentemente? Allora, a parte che, diciamo, siamo noi donne, siamo prevalenti numericamente come popolazione mondiale, questa sera vedo una prevalenza di pubblico femminile, potremmo dire che è un romanzo al femminile, però io ho avuto anche, diciamo, il piacere di ascoltare commenti da parte di rappresentanti del sesso maschile, perché la sensibilità maschile ovviamente è profondamente diversa da un certo punto di vista rispetto a quella femminile. Quindi sì, è un romanzo scritto da una donna, come quando si vede un film in cui il regista è una donna, ce ne accorgiamo, altrettanto credo che si avverta. Una cosa che ed è interessante forse come osservazione da fare è che ho cercato di dare credibilità ai personaggi maschili della storia, perché non è facile, appunto, da donna entrare nella psicologia maschile e quindi evitare magari di far dire a dei personaggi maschili cose che nella realtà un uomo non direbbe o non si comporterebbe in una determinata maniera. Questo è uno sforzo, in questo ho cercato, sì, ho fatto uno studio, ho cercato di correggere eventuali tentazioni di tipo più femminile, non femminista, femminile, e questo sì. Mentre mi è stato anche detto in occasione delle presentazioni precedenti che la storia ha un taglio quasi di tipo cinematografico, perché le descrizioni e, diciamo, l'azione, così come si dipana, sembrerebbe essere adatta a un film, appunto. Mi è stato chiesto se anche questo faceva parte di uno studio, no, questo, diciamo, se è un pregio, tra virgolette, o un errore, è congenito, nel senso che fa parte di me. Bene, grazie, prego. Grazie a lei. Io, diciamo che ho due curiosità, perché chiaramente, insomma, è già aperto? Perfetto. Sì, perché, insomma, da quello che ho capito è una storia anche dolorosa, quindi è giusto poi dedicarsi con grande attenzione a leggerla. Appunto, due curiosità che sono due aneddoti, in sostanza, perché ho dato proprio una piluccata alla prima pagina del prologo, di cui non dico nulla, e la cosa che mi ha un po' incuriosito è il fatto che in qualche misura la storia inizia nell'anno 1973. Sì. Che è un anno che, per ragioni molto particolari, molto personali, è un anno che mi sta molto a cuore. Allora, io mi chiedevo, credo di capire che Viola sia una ragazza degli anni 60, penso di poter dire... Sì, alla storia, alla data, il romanzo l'ho scritto nel 2015, poi di getto, poi ha subito un grosso laborelime, come si dice, quindi è attuale, una storia attuale. Sì, diciamo, la protagonista ha 42 anni, insomma, sì. forse più inizi 70, insomma, diciamo. Sì. Ecco, sì. Okay. E perché è stato scelto quel tipo di, diciamo, di frazione temporale, non so, legata anche, prima il professor Massuglia parlava anche, diciamo, di thrilling storici, c'è un legame anche con, non so, la Roma degli anni 70, oppure no, è stata soltanto una casualità, oppure ci sono delle ragioni? No, innanzitutto era per ricostruire determinate età, perché avesse un senso logico, ma non c'è nessun riferimento però particolare, anche, no. Non so, 1980, 81, un'altra... No, ci sono naturalmente... Ecco, diciamo che un personaggio, senza entrare troppo in dettaglio, avete notato che ha un cognome altoatesino, no? Ecco, e questo anche perché doveva essere un omaggio alla città d'adozione che è Merano. Infatti ci sono delle descrizioni del romanzo non solo di Roma ma anche di Merano, proprio perché ritenevo di voler fare questo omaggio alla città che, insomma, da 3 anni a questa parte abbiamo la mia famiglia ed io scelta come buon ritiro dopo la pensione, e quindi volevo trovare un escamotage perché questo personaggio avesse un cognome altoatesino, che è il secondo cognome più diffuso, credo, in Alto Adige, e ho dovuto naturalmente documentarmi sui tempi delle adozioni e delle affiliazioni, perché diciamo, l'istituto dell'affiliazione è stato definitivamente abolito nel 1983, quindi le età dei personaggi dovevano rientrare in questo arco temporale. Okay. Questo è Sì. Come perfetto. Piccola chiosa. La seconda domanda è appunto anche la presenza del cognome, quindi ho già risposto. Esattamente, poi diciamo, uno dei miei hashtag preferiti è indimenticabile nel 1973, quindi perfetto. Qualche altro? Prego. Una curiosità, gli altri romanzi sono anche thriller o sono di tutt'altro? No, il thriller è questo. Il primo, che giace nel cassetto da credo 30 e passa anni, è quello, ha degli spunti autobiografici e anche di vita vissuta nell'ambiente universitario, dove io insomma, ho insegnato all'università per tutta la vita accademica, e quindi lì ci sono molti spunti e molte situazioni, però sta lì, forse un giorno farà la bella addormentata del posto e tirerà fuori e vediamo. Dovrebbe uscire prima di Natale, incrociamo le dita, un mio romanzo storico, che è tutta un'altra cosa, è ambientato agli albori del Ducato di Normandia, quindi siamo intorno all'anno 1000, parliamo di vichinghi, parliamo della nascita della civiltà normanna, e quindi lì c'è stato anche un grosso lavoro di documentazione storica per non rischiare di far portare un orologio a un vichingo, un predone vichingo intorno a quegli anni, quindi c'è stato un grosso lavoro anche di documentazione di costumi, abitudini eccetera, e c'è, ed è naturalmente soltanto una cornice storica riferita ad alcuni personaggi realmente vissuti e documentati, poi naturalmente ci sono dei personaggi inventati, e anche lì c'è comunque una storia d'amore, visto che comunque l'amore fa parte della nostra vita. E poi c'è un'altra storia in cui i protagonisti sempre sono medici, perché ripeto, sono, anche se mi considero immodestamente uno scrittore prestato alla medicina, tutta la mia vita si è svolta e si svolge tuttora in ambito professionale, quindi è fatale che alcuni personaggi dei protagonisti siano dei medici. E un'altra invece è tutto fantastica, è da un'ambientazione un po', potrei definirlo quasi anche un romanzo d'avventura, con diciamo delle suggestioni che possono ricordare Daphne du Maurier, la prima moglie, Rebecca, la prima moglie, ecco, quindi sono molto diversificati fra loro, anche perché insomma non mi voglio attribuire personalità multiple perché andremo nel patologico, quindi non ci tengo, però anche in questo riflette che sono un po' poliedrica nelle mie manifestazioni. Bene, ecco un'altra domanda. Sì, solo una breve premessa e poi passo alla domanda. La premessa è quella che io ho conosciuto una professoressa Lucci per motivi di salute e dico solo che mi ha cambiato la vita. Quindi quando mi ha detto che aveva pubblicato il suo romanzo, sono corsa a leggerlo e l'ho finito in 3 giorni. E l'ho trovato bellissimo, e il modo anche di dipingere la città di Roma, che io conosco molto bene perché ho studiato lì, il quartiere Coppedè, mi sembrava proprio di essere, di trovarmi in quel posto, in quel momento. E anche la descrizione psicologica dei personaggi, veramente un libro emozionante. E la domanda è questa, volevo chiedere se il romanzo è stato iniziato e concluso come l'aveva immaginato, oppure se è stato un work in progress, quindi piano piano la trama e il plot è stato cambiato in corso di scrittura. Diciamo che il nucleo centrale, la causa che è alla base della storia e del suo dipanarsi è quello. Però qualche piccola deviazione di percorso c'è stata perché fatalmente appunto si segue, no, l'ispirazione, oppure qualche volta sono i personaggi stessi che in un certo senso sono dotati di vita propria e ti impongono di far dire cose che magari inizialmente non avevamo pensato. Un po' pirandelliano questo, ma qui in questo caso ci trovavamo i sei personaggi cerca d'autore, ma Umberto Eco, confesso, no, non ho nulla che mi chiami, anzi ignoravo, lo devo leggere a questo punto quello romanzo, perché devo capire se c'è un'ispirazione. Prego. Altra domanda? Prego. Allora, io ho letto il romanzo. Scrittrice, ho avuto naturalmente, sì, siamo per autrice per il momento, scrivente. E naturalmente conosco il finale, quindi potrei ricattare tutti gli astanti per non rivelarlo loro. Ecco, solo questo vorrei sapere, se siccome il professor Mastrolia ha rievocato Eco, insomma è chiaro che in ogni romanzo vecchio o nuovo, no, ci siano, come potrei dire, delle similitudini. Io le chiamerei delle suggestioni, quando si è consapevoli anche di avere letto in passato, attraverso la lettura si impara a scrivere, mi insegna anche lei, no? Certo. Quindi ecco, se per caso sarebbe una consonanza tra me e lei di suggestioni, ha letto il romanzo e visto il film Ed ora parliamo di Kevin? Schreiber è la scrittrice, la regista del film non lo ricordo, niente, non l'ho visto, perché io trovo lei. E analoghe, anche se in un contesto completamente diverso, nel film, io vedo più film di quanto legga libri purtroppo, ma insomma, American Beauty di Sam Mendes, questo se lo ricorda, sì, ecco, c'è qualche similitudine, beh insomma in alcuni atteggiamenti, di una persona, sì, in particolar modo, ma che non c'entra nulla, diciamo, con la sua, ecco, con la sua trama. Non voluto, sì, ma no, cioè, mi ha chiesto adesso se io avessi presente, sì, sì, ho visto il film, non ho letto il libro, sì, ma ho visto il film. Sì, sì, no, ma infatti un certo ricordo libro. Anche non, diciamo, compiutamente, sì. Mia sorella che è una cinefila appassionata forse potrebbe sicuramente intervenire. Troveremo sintonie sicuramente. Però no, ecco, devo dire che non... È casuale. Ecco, una cosa che posso dire è che lo spunto iniziale per questa storia, che poi ha avuto questa sua evoluzione, me l'ha dato la lettura di alcuni testi divulgativi di Angelo Bona. Angelo Bona è uno dei massimi esperti a livello internazionale di ipnosi terapia medica, e quindi siccome, ripeto, scrive in modo molto divulgativo, portando degli esempi naturalmente di pazienti reali che lui ha avuto, ecco, diciamo che l'ispirazione iniziale, quel quid che mi ha dato l'ispirazione per questa storia, è stato aver letto alcuni libri suoi. E poi anche nella descrizione dello psichiatra Raniero Ranieri, ecco, diciamo, anche lui è uno psichiatra anestesista, perché chiaramente ci possa essere la necessità di fare una sedazione a questi pazienti, quindi ecco, diciamo che la figura dello psichiatra mi è stata ispirata da Angelo Bona, e questo è quanto. Ispirazioni più che nobili. Ottima ispirazione. Prego. Altre domande? Ecco, il signore laggiù. Da parte mia invece una curiosità: qual è lo stimolo che porta uno scrittore, in questo caso una scrittrice di lunga data, a portare la propria esigenza di scrittura dalla sfera privata a quella pubblica, e quindi a mettersi in gioco, confrontandosi, appunto, rendendo pubblica la propria opera e confrontandosi con il pubblico e quindi con la critica. Quindi qual è il crinale che separa l'esigenza di scrivere come per se stessi come esigenza di soddisfacimento proprio e quella invece che porta a rendere verso l'esterno questa esigenza. Quindi cosa ha fatto scattare in lei questo desiderio di mettersi un po' in gioco? Ma io penso che sia un po' come il giallo bifronte, cioè io personalmente non credo a chi dice io scrivo solo per me stesso, perché nel momento in cui i nostri pensieri, la nostra fantasia, quello che è il portato delle nostre esperienze vengono messe nero su bianco o sul computer oggigiorno, è comunque un momento in cui si desidera comunicare, ma questo io lo confesso perlomeno per quello che mi riguarda, c'è comunque quel pizzico, io ritengo, di sana vanità che uno mette in questo e che naturalmente ha dall'altra parte, perché ci parlavo di giallo di fronte, anche il rischio di essere stroccati e di non avere, ma questo in fondo nella vita ci mettiamo costantemente in gioco, io credo, no? Ecco, devo anche dire che questo romanzo, per esempio, io l'avevo presentato a un noto torneo nazionale e non ha superato la prima fase, è stato rigettato, mentre io invece credo molto in questo romanzo, e quindi lo stimolo per rispondere a lei in questo caso è stato, dico, no, voglio che questo romanzo abbia una chance in più. Quindi ha subito un'opera di editing professionale, come oggigiorno si fa abitualmente, e devo dire i suggerimenti e le modifiche che mi è stato suggerito di fare forse hanno fatto la differenza in questo caso, dal momento che fino ad ora spero di non essere sconfessata, e finora devo dire ho avuto, mi sta dando delle soddisfazioni che non speravo tutto sommato di accogliere, anche perché il fatto di aver pubblicato un libro non fa di me una scrittrice, è quello che faccio dire anche alla protagonista, perché anche la protagonista scriverà un libro che è la sua storia e della protagonista, ripeto, sottolineo che non c'è nulla di autobiografico e quando si leggerà si capirà perché ci tengo a sottolinearlo e quindi insomma mi auguro che possa incontrare anche il vostro consenso. Ce lo auguriamo tutti quanti noi. Forse possiamo concludere se non ci sono altre domande. Bene, grazie. Allora ne approfitto per ringraziarvi, per ringraziare il nostro pubblico e così invitarvi anche alla prossima presentazione che è dedicata lunedì 2 ottobre al tema manuale di scrittura. Quindi chiudiamo un po' il cerchio. Come mese di ottobre tendenzialmente è anche un mese di ripresa di contatti, anche le nostre iniziative ripartono sempre con l'autunno. E presso il Centro Trevi verrà organizzata anche l'iniziativa Spazio Libro, quindi viene pubblicata tutta la presentata all'editoria locale. Poi l'Associazione Scrittori Altoatesini dedicherà a metà ottobre anche una settimana Non volevo approfittare per fare pubblicità, ma volevo solamente legarlo sì, al fatto che noi lunedì presenteremo appunto un manuale di Raul Melotto con l'autore, dedicato appunto alla scrittura. Questo è un po' anche il nostro compito come biblioteca, favorire e mettere a disposizione il più possibile strumenti e conoscenze per i cittadini. E poi trovate anche al Centro Trevi un fogliettone dove ci sono tutte le iniziative in previsione per queste prossime settimane qui a Trevi e quindi anche della biblioteca. Ecco. Visto che lei ha fatto cenno, allora ne approfitto. Dall'11 al 14 di ottobre l'Associazione Scrittori Bolzano sarà presente a Castelmareccio per un'iniziativa chiamata la Settimana dello Scrittore e alla seconda edizione, che abbiamo già fatto lo scorso anno e ho avuto, con un pizzico di orgoglio lo dico, un bel successo. Mi auguro che anche quest'anno accadrà la stessa cosa. Dall'11 al 14 a Castelmareccio di pomeriggio, dalle 17 alle 19, escluso il sabato che invece sarà di mattina. Sarà la manifestazione, sarà avviata credo o dal sindaco Caramaschi, che tra l'altro è il nostro socio, no? Socio fondatore oltretutto, e se non sarà possibile lui, magari dall'assessore alla cultura del comune di Bolzano, assessore, ripeto, uno dei due ci sarà. Chi vorrà poi essere presente ci farà piacere, aperto al pubblico, ingresso libero, e si concluderà poi con un brindisi finale. Grazie. Benissimo, allora ancora grazie a voi, ai nostri ospiti, a tutti quanti, e vi invito insomma a partecipare alle nostre prossime iniziative. Grazie a tutti e un particolare.